La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Sarà la primavera che finalmente è arrivata, ma insomma è querel al Senato, dove è polemica sui pianisti in aula. Chi sono i pianisti? Non i pianisti di piano bar, bensì coloro che votano per altri colleghi. Ieri il Movimento 5 Stelle è stato autore di un video che all'apparenza, ma solo all'apparenza perché si sono ahimè sbagliati, riprendeva il senatore Lucio Malan votare in un altro posto da quello dove era seduto. Sentiamo questo sonoro di questo video 5 Stelle con le voci fuori campo. Preso. C'è un altro? Mauri, due pianisti, possiamo fare nome e cognome, eh? Sto votando per due. Sì, quello va bene. E questo ragtime è preso proprio dal Movimento 5 Stelle. Ma il diavolo, ahimè, fa le pentole ma non i coperchi. Si è venuto a scoprire che Malan del PDL votava in realtà per se stesso, ma non era al suo posto. E allora ne è scoppiata una bagarre in aula. Intanto vi ricordo il numero per gli sms 349-238-6666 tra Malan, il senatore Vincenzo Sant'Angelo del Movimento 5 Stelle e il presidente di Palazzo Madama, Piero Grasso. Sentiamo. Io ho chiesto di essere messo in congedo e non potrò votare fino a quando un gruppo, un organo di questo Parlamento, di questo Senato, può permettersi di dire che le votazioni del Senato sono irregolari. Chi lo dice da fuori dovrà, spero, pagare le conseguenze, ma chi lo dice da dentro non può essere considerato come se fosse da fuori. Io non posso votare in una situazione del genere. La ringrazio. È chiara che l'operazione goffa, mi consentirà il collega di definirla così, di votazione, è stata lampante. Tutti hanno visto il video. In merito al discorso economico, è chiaro che questo movimento Senatore Sant'Angelo, la richiamo all'ordine, non sono espressioni che lei può utilizzare in quest'Aula. Presidente, la prego di limitarsi a esprimere le proprie opinioni, ma non a usare queste espressioni. La richiamo all'ordine. Presidente, ho utilizzato la parola goffo. Cioè, Non ribadisca quello che già le ho detto di non fare, per favore. Insomma, goffo è sembrato un po' il Movimento 5 Stelle perché aveva ripreso una cosa che invece era regolare, anche se Grillo dice l'anomalia sono i pianisti, non chi li smaschera, continueremo a denunciare tutte le anomalie, ma in questo caso l'anomalia non c'era. E dice, per esempio, il nostro radioascoltatore Massimo, altra figura da peracottari dei fessacchiotti a 5 stalle. Salve, invece dice Matteo, e qui invece ci agganciamo a un tema molto importante. Io sarò prevenuto, ma un leghista che si professa secessionista come presidente del Copasir mi spaventa un poco, e si parla di cose serie. Adesso abbiamo scherzato, le commissioni, la vigilanza Rai è andata a Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, invece come abbiamo sentito al Copasir eletto il leghista Stucchi, mentre alla giunta delle elezioni e delle immunità del Senato Dario Stefano di Sel. Ma cosa è successo e cosa faranno i 5 Stelle? Beh, noi l'abbiamo chiesto a Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Ma io credo che sia fosse una cosa che noi chiedevamo con forza, perché siamo l'unica vera opposizione di questo Parlamento, la più grande di questo Paese, e non credo che fosse una buona prassi dare queste giunte di garanzia a queste opposizioni fabbricate ad hoc proprio per dargli le giunte. Io credo che la vigilanza Rai sarà una grandissima opportunità. Lì riusciremo, secondo me, a correggere degli squilibri che ci sono all'interno del nostro sistema radiotelevisivo, principalmente secondo me legato alla logica del mercato, a servire il nostro palinsesto della TV di Stato alle logiche di mercato dello share, hanno abbassato di gran lunga in questi anni la qualità dell'informazione e dei programmi. Non siamo il CDA, la vigilanza RAI non è il CDA, però può attraverso funzioni di indirizzo riuscire appunto a migliorare la qualità del nostro servizio radiotelevisivo. Potremmo dire addio alle lottizzazioni dei partiti, alle mani dei partiti sulla RAI? Questo è il nostro principale obiettivo, togliere la RAI dalle mani dei partiti. Ci inventeremo poi, insieme alla discussione parlamentare con le altre forze parlamentari, un modo per riuscire a toglierla definitivamente dalle mani della politica. Senta, ma c'è un po' d'amarezza per quanto riguarda il Copasir che è andato alla Lega? Io credo che con il Copasir si è violata la legge, perché la legge dice che il Copasir, secondo la riforma dei servizi segreti, deve andare all'opposizione. Qui ci sono dei partiti che sono arrivati in Parlamento in coalizione con i partiti di governo, poi si sono distaccati, sono diventati opposizione e si prendono le giunte come il Copasir. Io credo che su questo gli italiani non siano dei fessi e hanno capito bene quali sono state le manovre per toglierci forse la giunta più importante. Insomma, dove c'era la ciccia, non Movimento 5 Stelle. Dove c'è molta ciccia, anche nella RAI c'è ciccia. E questo abbiamo sentito Luigi Di Maio, che appunto contesta questa nomina al Copasir, come ci aveva scritto anche un nostro radioascoltatore. Moltissimi però i vostri sms su questa storia dei pianisti, perché alcuni se la prendono con i 5 Stelle, altri se la prendono con Grasso, altri invece se la prendono con quelli che nelle scorse legislature a voglia se votavano per gli altri. Tant'è vero, informatevi, Formigoni ha confessato di aver votato per altri. Li ho votati, dice Francesco, riguardo ai 5 Stelle, ma ora rinsavito da un abbaglio credo che debbano solo tornare a fare i carciofari. Ora vado a rubare, dice Roberto, e spero che proibiscano ai carabinieri di controllare. Ma Grasso, invece di proibire i pianisti, proibisce la sorveglianza, vi rendete conto? Forse questa volta era così, ma l'altra volta grazie. Ecco, vediamo che siete abbastanza diciamo così, molto molto divisi. A me pare che sei troppo di parte, si capisce che sei contro i 5 Stelle. Ciao Batwoman Sergio. No Sergio, io ho appena sentito Di Maio, proprio perché condivido che bisogna assolutamente togliere la RAI dalle mani dei partiti e spero che il Movimento 5 Stelle proprio faccia qualcosa. Allora, intanto sul fronte delle riforme, lo so che non vi appassiona il fronte delle riforme perché è un po' pesante, il governo vara finalmente il disegno di legge sulle riforme istituzionali. Non si perderà tempo, assicura il ministro Gaetano Quagliariello, mentre sia dal Quirinale sia da Palazzo Chigi si smentisce un governo a tempo. Matteo Renzi è scettico e sentiamo cosa ne pensa all'interno del Partito Democratico, che come sappiamo è molto democratico perché ha tante, tante visioni all'interno dello stesso partito, il renziano Ermete Realacci. Ma quella di Letta era una battuta anche simpatica. Io penso che il problema del governo è fare delle cose utili agli italiani. Alcune delle cose che il governo ha fatto sono cose utili, bisogna farne molto di più perché abbiamo una crisi durissima e un'Italia che deve riacquisire speranza. Se il governo farà molte misure di questo tipo, rimetterà in moto l'economia, supererà una visione miope, diciamo, della stabilità di bilancio promossa anche dall'Europa, credo avrà vita lunga. Ma Matteo Renzi si candida alla segreteria allora? Allora ufficiale, finalmente avete il vostro candidato alla segreteria? Ma insomma, io quella è una scelta che sta soprattutto a Matteo. Io credo che Matteo abbia ragione per le prese di posizioni pubbliche che ha fatto nel dire un po' le cose che dicevo io, che il governo dura se fa delle cose utili al paese, e un po' nel dire che non si può, diciamo, rinviare la riforma elettorale a dopo le riforme costituzionali. Troppe volte abbiamo preso in giro gli italiani sostenendo che la riforma elettorale era dietro l'angolo e non l'abbiamo fatta. Difatti siamo tornati a votare con il porcellum. L'idea di mettere intanto in sicurezza il voto, per così dire, tornando alla vecchia legge elettorale, quella basata sui collegi, che era sicuramente molto migliore. E questo era Ermete Realacci. Non ho tempo di rispondere. Un saluto da Elisabetta Fiorito.